andemo se tutti che riva la Marcolina farà. Andemo se tutti perché le brutta e disonesta con somari. Ecco la la la vorro far con somari. Ecco la la col fuoco in mano. Capemo via perché la vuol cruzarne tutti. Capemo via perché le anche un'assassina. Chiamemo i gendarmi. E la caccia e che darà, chiamemo i gendarmi, che al cego e la fanà. Ecco che la farà, le braccata dai gendarmi, e dalla cata altri frutti farà butti che fa comune là. Pari gendarmi contrastar che fa comune là. E intanto la seta a robar. Dopo l'occhi gendarmi ecco che riesce a catturarla. Ma suo marito ha un letto e riesce a liberarla e scappa via. E tanto male sei da far, ma i gendarmi, far vinti e sconfitti noi se da. I gendarmi di seta decisi a correr che treo, che la banda dei ladri co a capo Marcolina e finalmente di la cattura e finalmente condanna al cego la sarà.